3, 2, 1, via! Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata dell'Incredulo qui su Radio Big World. Un saluto dalla vostra Elisa, che come sempre oggi vi parlerà di un argomento molto interessante e dovrà confrontarsi con il nostro incredulo Giorgio. Buongiorno Giorgio. Elisa, è già l'ottava volta che continuiamo con questa storia. Ma questi guru, questi santoni che poi sono da quattro soldi, la gente che va in giro a abbracciare, oh pace, amore, ma dai, ma basta, ma sono tutte baggianate. Certo, c'è da dire che con te, Elisa, e delle cose di cui abbiamo parlato, sì, mi sembravano bizzarrie, però in parte le ho provate, per esempio la curcuma, per esempio lo zenzero, e effettivamente fanno qualcosa, ma addirittura dei cristalli. C'ho un amico che fa l'avvocato a Milano, è laureato a Oxford, non sarà proprio un cretino, e lui la mattina si fa il cocktail di sali minerali e pietruzze come tu lo hai indicato. Quindi probabilmente qualcosa di vero, qualcosa di reale in quello che dici c'è. E oggi di che ci parlerai? Mi parlo dei cugini dei fiori di Bach, cioè dei fiori australiani. Hanno a che vedere con i fiori di cannabis e con il loro utilizzo, oppure si usano in tutt'altra maniera? No, nemmeno questi si fumano, Giorgio, mi dispiace. Anche questi si prendono per bocca a goccioline. Beh, anche Kennedy si faceva le punture di THC per il dolore alla schiena. Ma i fiori australiani? Ma perché australiani? Che fanno? Se li ha inventati qualche sciamano aborigeno? Non se le ha inventate uno sciamano aborigeno, però diciamo che Ian White, che è l'inventore, cioè lo scopritore, diciamo, dei fiori australiani, nello scoprire queste essenze, ci ha trovato tantissime relazioni con le leggende degli aborigeni che vivevano in Australia. Questi fiori australiani sono, diciamo, l'evoluzione di ciò che Bach aveva iniziato. Come vi avevo detto, Bach è molto molto giovane, è vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento e nessuno dei suoi discepoli poi ha portato avanti le scoperte o qualche nuovo utilizzo dei fiori. Quindi, dopo la sua apertura al mondo della floriterapia, ci sono stati tanti persone in parti del mondo che hanno iniziato a studiare la floriterapia. Infatti abbiamo i fiori australiani, abbiamo i fiori californiani, i fiori dell'Arizona, i fiori del Canada, i fiori dell'Himalaya, fiori indiani, fiori francesi, fiori italiani. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Ci sono tantissime tipologie. I fiori australiani invece hanno una particolarità molto strana per la floriterapia, come conosciamo noi la floriterapia del dottor Bach, perché se ti ricordi bene ti avevo detto che i fiori di Bach lavoravano solo sulla parte emotiva, Sì. quindi andavano a fare un riequilibrio delle emozioni. I fiori australiani invece lavorano sia sulla parte emotiva, ma hanno un forte impatto anche su sintomi fisici e lavorano anche sulla spiritualità. So che è un po' da santoni questo, però per chi ci crede riescono quindi a lavorare anche sulla parte di noi, diciamo, non proprio conscia, quindi sullo spirito, sull'io evoluto. Per chi ci crede riescono a lavorare anche sulle vite precedenti e a connetterci con i nostri maestri, le nostre guide. Incredibile, incredibile, addirittura lavorano sullo spirituale. Ma rimaniamo a questi fiori. Quando hai introdotto i fiori di Bach, ci hai spiegato che non erano i fiori di una pianta di Bach o una pianta piantata dal compositore Bach, ma che venivano da tanti tipi di piante e prendevano questo nome in base al tipo di trattamento che subivano per trasformarli in qualcos'altro. I fiori australiani sono di una pianta, che ne so, dell'eucalipto che se li mangia il koala, oppure anche questi sono fiori di tante piante? Sono fiori ad oggi, perché Ian White è ancora in vita e continua a produrre e a scoprire nuovi fiori. Sono ad oggi 65 piante. Alcune sono essenze di licheni, cespugli o foglie, però principalmente sono 65 fiori, diciamo, che vengono lavorati col metodo della solarizzazione. Praticamente vengono messi i fiori dentro una boccia di una bacinella di acqua e lasciati al sole per 8 ore. E una volta lasciati al sole vengono tolte i fiori, e di questa essenza viene usata, aggiungendoci il brandy, per fare le tinture madre. Alcuni di questi fiori invece prediligono l'esposizione alla luna, quindi 2 o 3 di questi fiori vengono esposti sotto la luce della luna e poi viene fatto lo stesso lavoro. È quasi una preparazione alchemica a questo punto, ma che tipo di evoluzione sono i fiori australiani rispetto a quelli di Bach? È proprio l'esposizione agli astri che li rende differenti anche negli effetti? Alcuni fiori sono molto simili, alcuni no. Diciamo che, per esempio, su alcune corrispondenze dei fiori di Bach negli australiani non ci sono, quindi non è che hanno ripreso in toto la floriterapia di Bach e poi hanno trovato il corrispettivo dei fiori australiani. Lavorano principalmente sui problemi di oggigiorno, quindi sono un pochino più moderni rispetto ai fiori di Bach e vanno dalla tipologia dell'aiuto in caso di tristezza, depressione, stanchezza fisica, oppure bisogno di staccare con il passato, più o meno come lavoravano i fiori di Bach. Essendo 65, diciamo che abbiamo un range di sfaccettature, di emozioni e di sintomi fisici molto ampio. In più, la cosa che ha fatto Ian White, che è molto utile soprattutto per chi non conosce la floriterapia, sono le miscele già pronte. Ne esistono una 15 ad oggi, ognuno per uno specifico problema. Per esempio c'è l'Emergency, che è il corrispettivo del Rescue Remedy dei fiori di Bach, che va a lavorare sugli attacchi di panico, incidenti, traumi. Poi c'è lo Stress Stop, che invece è un calmante nelle giornate un pochino più di stress. C'è, diciamo, l'Equilibrio Donna, che invece va a toccare tutte le fasi ormonali dalla prepubertà alla menopausa di una donna, l'adolescenza, quindi c'è anche la composizione per i cambiamenti durante l'adolescenza, il Fluent Expression per chi ha bisogno di parlare in pubblico e quindi lo può prendere nei momenti in cui ha bisogno, quindi di trovare il coraggio di aprire bocca davanti a una platea, eccetera eccetera. Insomma, sono molto carine perché, diciamo, riescono ad arrivare alle persone anche che non conoscono bene la floriterapia e quindi possono provarli senza bisogno di una consulenza vera e propria. E poi hanno anche la parte di miscele pronte per gli animali, simili a quelle che ti ho detto per gli uomini, hanno fatto il corrispettivo delle emozioni animali. Interessante, ossia Bach aveva cominciato a studiare la floriterapia alla sua maniera per la sua generazione e i suoi tempi, che era la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. White, che vive ad oggi, ha potenziato, sviluppato, trasformato questi studi e la floriterapia perché fosse e perché sia efficace nei tempi odierni, quindi i tempi dei computer, della comunicazione, dell'immagine, dello stress, del traffico, del cibo avvelenato. Esatto, tieni presente che ha fatto anche una miscela pronta che si chiama Electro, che ci aiuta a proteggerci dai campi elettromagnetici, quindi è utile da tenere per chi lavora tantissimo al computer. Ha fatto una miscela Travel per chi soffre di problemi di viaggio in macchina, aereo, quindi una sorta di sostituto, diciamo, delle pasticche per il mal di macchina, il mal di movimento, mal di macchina. E continua a studiare sia le piante già esistenti, quindi ogni tanto escono degli aggiornamenti su nuove scoperte su quali fiori possono agire, quindi una sorta di aggiornamento, e scopre nuovi fiori e nuove essenze, nuove miscele già composte. Tieni presente che poco tempo fa è uscita un'essenza che per i tempi nostri è molto utile, che è il caregiver. Il caregiver viene usato per chi assiste alle persone malate, quindi dalle infermiere alle ossa, alle badanti. Quindi è una sorta di aiuto a un sostegno morale alle persone che assistono, e che, diciamo, fa parte dell'epoca moderna, perché invecchiando noi, avanzando con l'età, è molto più facile che nostre nonne, mamme abbiano delle badanti o delle persone che l'assistano. Ma pensa a questi australiani! Andiamo allo sciamanesimo, a quella parte un po' oscura e un po' occulta della realtà, e mi ha colpito quando hai parlato di vite precedenti, ossia che cosa succede? Uno si prende sta miscela e... Ci sono diverse miscele che lavorano sulle vite precedenti. La principale, o quella che ti posso descrivere di più, è il baobab, quindi il fiore del baobab. Il fiore del baobab va a tagliare tutte le relazioni che noi abbiamo e che ci portiamo in questa vita dagli api. Quindi tutti quei comportamenti che noi attuiamo senza volere, o senza una vera e propria conoscenza, che magari ci fanno anche star male, ci fanno soffrire, che stanno nel nostro DNA perché sono state trasmesse dai nostri genitori o dai nostri avi. Una ricerca scientifica di poco tempo, insomma, recente, ha raccontato che all'interno del nostro DNA sono stati codificati anche tutti i traumi non risolti dei nostri avi. Quindi proprio una ricerca scientifica che dice che se il nostro bisnonno, per esempio, ha avuto un trauma nella sua vita e non è riuscito a risolverselo, quindi è morto con la preoccupazione di quella cosa che è successa, e i nostri genitori e così, insomma, è andando avanti nelle generazioni, nessuno è riuscito a risolverselo, noi ce lo ritroviamo nel DNA. E quindi a volte ci sentiamo preoccupati o abbiamo paura di qualcosa che però non ci appartiene, perché non è una paura nostra, è una paura che ci portiamo dietro. Questo fiore aiuta proprio a tagliare tutte queste cose malsane che ci portiamo dietro da prima della nascita, ed ha un effetto micidiale, te lo posso garantire, perché l'ho provato. Questo fiore è veramente forte, forte. Che le colpe dei padri ricadano sui figli. Allora, insomma, quello che predicava Savonarola, ora dico Savonarola, dal pulpito, forse non erano tutte baggianate. D'altra parte, da quello che mi hai raccontato, mi è venuto in mente l'immagine che molti sentieri portano però alla vetta della montagna, per cui quello che si fa per via, permettimelo, alchemica con questi fiori australiani, risultati simili si ottengono per esempio in altre culture meditando, in altre culture scrivendo parole sacre, in altre culture probabilmente come la nostra, una cultura robotizzata e che studia approfonditamente il cervello, per esempio certi risultati si raggiungono con i suoni binaurali. Comunque, questo dà in qualche modo una base anche più ampia alle tue parole. I fiori di Bach erano essenza di questi fiori, di queste piante, più brandy e qualcos'altro. È lo stesso tipo di composizione dei fiori di White? Esatto, sì. I fiori australiani sono le tinture madre, sono 2/3 acqua con la tintura madre per 1/3 di brandy, e poi anche questi vengono diluiti per fare le miscele pronte all'uso da dare alle persone. Nel caso qualcuno fosse interessato a provare queste miscele, e io avrei anche una lista lunghissima di cose da provare, come fa, a chi si rivolge, dove trova queste miscele, le miscele che gli servono? Allora, quelle già pronte, quindi le composizioni di cui ti accennavo prima, si possono trovare in erboristeria e possono essere ordinate da qualsiasi farmacia. Quindi uno va in una farmacia, anche se non li trova esposte, può chiedere di ordinare i fiori australiani, gli vengono recapitate nel giro di poco, perché hanno una rete distributiva in Italia molto ampia. Si possono ordinare online, ci sono vari siti che li vendono. Invece, per quanto riguarda le miscele pronte all'uso, quindi una consulenza fatta con una floriterapeuta, in questo caso bisogna cercare la erboristeria adatta, una volta che la floriterapeuta abbia fatto la consulenza, che abbia tutti i fiori per poter fare le miscele. Però, insomma, diciamo, le miscele pronte all'uso da provare tranquillamente in farmacia, in erboristeria o online le trovate. Parlavamo con un amico di un fiore, di una pianta strana, tropicale, che pare sia allucinogeno se cucinato in un certo modo, e una amica olandese rispose: beh, più o meno la metà dei fiori sono allucinogeni, pertanto i fiori di White, i fiori australiani che ricordano un po' l'isola di White, gli hippie, ebbene sono disponibili per un sacco di, per offrire un sacco di soluzioni ai problemi della vita moderna. Elisa, grazie delle tue indicazioni. Un po' come mi è successo nelle altre settimane, sento quasi il desiderio di correre in erboristeria e farmene un quartino. Va bene, corri, tanto al massimo non ti fanno niente, non se speri di avere effetti allucinogeni, ti dico che non te li danno, quindi al massimo ti bevi un bel po' di brandy, quello sì. Ma pensate, io mi pensavo gli sciamani che vedono la dea madre, e invece alla fine, se proprio qualcosa mi succederà, è correre al gabinetto, d'accordo. Mi ricordo una conferenza di alcuni anni fa, si parlava di vite precedenti e l'oratore disse: ma come mai sono tutti Cleopatra e nessuno è stato uno stracciaculo di schiavo? Ebbene, in effetti. Grazie Elisa. Grazie a te Giorgio, e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Un saluto e alla prossima puntata. Olè.